In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno?» Ma quello gli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire. Se no, lo taglierai». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. La misericordia di Dio è infinita, fratelli e sorelle carissimi, ma la pazienza divina no, non altrettanto. Nel senso che essa ha un termine, passato il quale alla misericordia subentrano le esigenze altrettanto serie e imprescindibili della divina giustizia. Se noi diamo un'occhiata trasversale a tutte e 3 le letture, che sono tutte e 3 abbastanza impegnative e che contengono tutte dei moniti abbastanza severi, vedremo come tutte appunto convergono verso questo tema focale. La prima lettura che abbiamo ascoltato ci presenta l'intervento di Dio a favore del popolo di Israele, la cui intenzione si manifestò storicamente nel memorabile e celebre episodio del roveto ardente, nel quale, insieme alla sua volontà di salvare il suo popolo, Dio manifestò anche a Mosè il suo arcano e santo nome: «Io sono colui che sono», il nome che esprime l'essenza trascendente e infinita di Dio. Attenzione che erano passati 500 anni circa da quando gli israeliti, scesi in Egitto al seguito di Giuseppe, figlio di Giacobbe, li bisogna riprendere i libri della Genesi dal 37 al 50 per capire come hanno fatto gli israeliti a trovarsi in Egitto, vengono fatti schiavi, e le promesse fatte ad Abramo, Isacco e Giacobbe, capite, figlioli miei, per 500 anni sembrano rimanere latenti. Ti porto nella terra promessa dove scorre latte e miele. 500 anni, dicconsi 500, mica una settimana, di schiavitù. Domanda: durante questo tempo, secondo voi, qualcuno degli israeliti avrà pensato che Dio si era dimenticato del suo popolo? Sì o no? Non lo sappiamo, però insomma, probabilmente sì. E cosa è successo? Dio ha pazientato a lungo, pazienta 500 anni. In parte ha pazientato con gli egiziani, perché dopo, quando è intervenuto, ha fatto il finimondo in Egitto. In parte ha i suoi tempi di intervento. Il suo intervento avrebbe significato la liberazione di Israele e la fine del faraone. Piazza pulita. Sappiamo la storia, no? Le 10 piaghe d'Egitto, alla fine il faraone manda via per disperazione, prima che gli andasse, che distruggesse tutta la terra. Dopo ci ripensa, gli corre appresso, Dio apre il Mar Rosso e ce li chiude dentro. Dio: «Ok, basta, è abbastanza finito, capito? Ecco. Questi eventi anzitutto ci insegnano a tenere sempre bene in mente che Dio non si dimentica mai del suo popolo. Dio non dorme, dice un salmo, bellissimo salmo 120 o 121, non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele, sta sempre con gli occhi aperti. E perché non interviene? Non è che non interviene, lui interviene nei tempi e nei modi che solo la sua trascendente e incomprensibile grandezza, che peraltro è espressa dal suo nome, solo Dio può dire in verità io sono, nessuno ente creato può dire una cosa di questo genere, interviene nei tempi e nei modi in cui la sua grandezza e trascendenza sanno e conoscono, e non è necessario che li conosciamo noi. San Paolo nell'epistola sembra fare il sequel, perché ci ricorda che è successo agli israeliti dopo che sono usciti dall'Egitto e sono andati nel deserto. Qui c'è veramente, per chi ce li ha, da mettersi le mani nei capelli. Perché che succede? Il popolo nel deserto, il popolo di Israele, questo popolo che riceve un intervento prodigioso e salvifico di Dio, si comporta in maniera tutt'altro che grata dinanzi a Dio che pur tanto lo aveva beneficato, anzi non cessa in continuazione di mettere alla prova la divina pazienza. La prima volta con la manna, poi con le guaglie, poi ci avevano sete e volevano bere, poi si fanno il vitello d'oro, o fino a quando tu tira la corda, tira la corda, tira la corda, un bel giorno Dio un'altra volta dice basta, solo che stavolta basta non nei confronti degli oppressori del suo popolo, ma basta nei confronti dei figli del suo popolo. Abbiamo sentito San Paolo, lo sterminio della maggior parte di esterminio, e se uno legge il Pentateuco, tutti quelli che mormorarono contro Dio, nessuno è entrato nella terra promessa. Sapete che la Santa Madre Chiesa, penso che tutti quanti sappiate che un tempo si chiamava il breviario, oggi si chiama la liturgia delle ore, la Chiesa ha una preghiera liturgica quotidiana, no? Penso che avrete sentito parlare delle lodi e dei vespri, no? Questa preghiera ufficiale e pubblica della Chiesa che ogni sacerdote, ogni frate, ogni suore è obbligato a fare, i laici possono farla pur senza essere obbligati, la mattina comincia con il Salmo invitatorio, si chiama, che è il Salmo 94, che nella parte conclusiva rievoca proprio queste parole di San Paolo, perché dice per 40 anni, parla il Signore, mi disgustai di quella generazione e dissi sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò attenzione, ho giurato nel mio sdegno non entreranno nel luogo del mio riposo, e non ci sono entrati, e manco Mosè c'è entrato per un piccolo tentennamento dopo che era esasperato dal sentire il peso di tutti questi che gli levavano la pelle, perdonatemi il termine, della mattina alla sera, perché ce l'avevano col Padre Eterno e ce l'avevano con lui, che era il mediatore, il rappresentante. Ha una piccola debolezza, il Signore dice, hai dubitato davanti a me? Ti faccio salire sul Monte Nebo, la terra promessa la vedi, ma Giosuè ce l'introduce, tu no, tu sarai seppellito lì sopra, e così è stato. Ecco perché San Paolo conclude con quelle parole che sono un monito, non una minaccia. Attenzione, chi crede di stare in piedi, perché è tutto da dimostrare che stiamo in piedi, parlo anche per me, badi di non cadere, perché poi sono guai. Eppure il Vangelo di Dio dice, mamma mia, allora la terza domenica di Quaresima, capite la logica un pochino di questo percorso. La prima domenica sono le tentazioni, la seconda la rassicurazione, dice forza, mi raccomando cammina, perché se farai bene questo cammino sarà un grande tempo, arriverai rassicurato, quindi te lo dice con le buone. Oggi dice sta attento che se non ti converti, poi te l'ho detto con le buone, se ti converti la tua vita diventerà una cosa bellissima, la seconda domenica ti trasfigurata. Oggi c'è l'aspetto negativo della medaglia, se non ti converti ti sommergeranno un mare di guai, le cose andranno male, altro che andrà tutto bene. Le cose vanno bene, andranno tutto bene, ricordate questa frase, se tutti si convertono, se no bene non va manco, non va niente bene, non va bene niente, cantano i miei amici d'esame in una bellissima canzone, non va bene niente. Allora, Vangelo, altra botta, Gesù prende due fatti di cronaca nera, un intervento di esecuzione di massa pazzesco di Ponzio Pilato, che durante una rivolta crocifisse alcune persone sulle mura di Gerusalemme, terrorizzando gli israeliti. E poi un fatto di cronaca nera: non erano le Torri Gemelle, ma erano cascata, era cascata una torre, era crollata e ammazzava 18 persone. Nella mentalità di un tempo, dice, ah, quelli che sono stati ammazzati, quelli che sono cascati addosso, chi lo sa quanti peccati avevano fatto. C'era questa idea che se ti capita una disgrazia, chi lo sa che hai fatto. Ora, questo non è del tutto vero, è da correggere, nel senso che Gesù dice, che vi pensate, che quelli erano peggio di tutti voi? No, vi dico, ma se non vi convertite vi capiterà la stessa cosa. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Non pensare, quando ad uno gli capita una disgrazia, che lui è un grande peccatore, ma pensa, se non mi converto mi può capitare come quello e peggio. Capite il senso, no? Quindi cosa sta dicendo Gesù? Non spetta a noi, come dire, valutare i nessi causali, perché noi non conosciamo il cuore dell'uomo. Quello è peccatore e quindi è stato punito da Dio, come si diceva un tempo. Però una cosa è vera: le disgrazie, la torre che cade, o i tiranni che ti opprimono barbaramente, il Ponzio Pilato di turno, da cosa sono provocati? Da cosa sono attirati? Dice, se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Chi è che si deve convertire? Chi è un peccatore. Quindi che significa? Significa che le sciagure, anche naturali, le catastrofi, oppure i tiranni di turno, sono provocati e attirati dai peccati degli uomini. Mai nessuno dica, quello è un peccatore, è stato punito da Dio, ma si pensi, quando le cose vanno tutte storte, non faremmo bene tutti quanti, nessuno escluso, a metterci in ginocchio e a cominciare un attimo a chiedere perdono al Signore, invocare la sua misericordia e convertirci dalla nostra condotta? Questo sì, e questo è il senso del tempo che stiamo vivendo. Allora, concludiamo. I momenti della storia in cui Dio dice basta arrivano sempre. Poi c'è la paraboletta, no? La paraboletta del vignaiolo e del figo. Che significa? È abbastanza evidente, no? Chi è il padrone che dice, sto fico non produce frutti, taglialo. Capite cosa c'è fuori di metafora, no? Il padrone è Dio Padre, che vede una persona che non si converte mai, dice, basta, il tempo è finito, ma ha stufato, via. Chi è il vignaiolo paziente? È Gesù che dice, abbi pazienza un attimo, gli zappetto intorno e lo concimo, gli mandiamo una piccola tribolazione, gli mandiamo qualcuno, qualche profeta, qualche mio inviato, che con le buone o con le cattive lo chiama a conversione, vediamo di lavorarcelo un po', pazienza. Però passato un anno, se non produce frutti, o tagliamo. Capite perché la misericordia è infinita e la pazienza no. Quindi arriva un punto omega in cui Dio dice stop, e dice stop sia ai cattivi che opprimono il suo popolo, sia ai membri indegni del suo popolo. Vicenda di Israele nel deserto, ce n'è per tutti, perché non ci sono preferenze di persone, Quando arriva quel momento dobbiamo tremare, perché vuol dire che il tempo della conversione è finito, e poi sono guai. Possiamo avere l'impressione che non arrivi mai, 500 anni di deserto, ma arriva. Ecco, e quando arriva, ripeto, cavalli, cavalieri, servitori, tutti dentro l'acqua e tutti affogati. Allora, facciamo in modo, e la Quaresima serve a questo, chiaramente, che il tempo che il Signore ci concede, anche questo tempo santo, sia un tempo fruttuoso, un tempo per riflettere, un tempo per pensare, un tempo per tornare di cuore al Signore. È importante, perché se si torna al Signore umili e pentiti, con una sincera conversione e con un profondo rinnovamento di vita, si godrà del suo perdono, della sua salvezza e della sua pace. Non si aspetti troppo a farlo, perché potrebbe essere troppo tardi. Il famoso Salmo 94 che abbiamo citato dice: ascoltate oggi la sua voce, non rimandare a domani la conversione che puoi compiere oggi. Siano lodati Gesù e Maria.